Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ormai c'è una parte del PD che si oppone, avrebbe detto Totò, a prescindere. Mi aspetto da un momento all'altro una dura opposizione persino sul colore delle cravatte. Fa del sarcasmo, come sentite, Matteo Renzi sulla minoranza PD, a proposito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, delle polemiche all'interno proprio del Partito Democratico sulla legge di stabilità, che sapete è stata varata la scorsa settimana dal governo e adesso è all'esame della Commissione Europea, anche se da fonti qualificate europee, così si usa questa espressione, sembra che non sarà respinta al mittente. Il timore era un po' questo, no? Che l'Unione Europea nel suo giudizio, nella sua valutazione dicesse ci vogliono delle correzioni, quindi ve la rimandiamo e voi rimandatecela corretta. Invece sembrerebbe che ci sia un via libera, anche se non ufficiale, per il momento ufficioso, però continuano le polemiche appunto all'interno del Partito Democratico, tanto che la minoranza ha presentato una contromanovra. Poi ne parleremo di questo, della legge di stabilità, andremo un po' più nel dettaglio. Vedevo tra l'altro adesso che si chiarisce come si pagherà il canone RAI in bolletta. Si pagherà in 6 rate da 16,66 euro, però senza televisione o internet non sarà dovuto. Sapete tutti i dubbi di tutti che dicevano ma io non ho il televisore, perché dovrei pagarlo in automatico nella bolletta elettrica, o chi diceva io ho internet però ho il computer quindi non ho il televisore. Ecco, qui parrebbe che invece avendo internet sarà dovuto questo canone. Poi man mano scenderemo nei particolari, nei dettagli, e affronteremo anche altri argomenti, per esempio il giallo nel Bresciano con l'imprenditore scomparso. Sapete che ieri è stato trovato morto un suo operaio e novità di oggi è che la procura di Brescia ha aperto un fascicolo sull'istigazione al suicidio, quindi questa potrebbe essere l'ipotesi più avvalorata dagli investigatori, che questo operaio sia stato spinto al suicidio. Anche qui però è un'ipotesi per il momento, ne parleremo con un criminologo. Sulle unioni civili, argomento dibattutissimo, non si capisce neanche quando insomma si decideranno a discuterlo, a vararlo, non vararlo, eccetera eccetera. Avremo Sergio Lo Giudice, senatore del PD, ancora ci sono polemiche con Alfano che chiede il voto segreto, dall'altra parte Renzi che dice è una priorità quello delle unioni civili, però non abbiamo muri ideologici, quindi sembra che si ammorbidiscano un po' certe posizioni. Staremo a vedere. Voi intanto avete capito che cos'è questa stepchild adoption che è dentro il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili? Perché tanti secondo me la fraintendono. Cos'è la stepchild adoption? Voi scrivete le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, è sempre lì per voi giorno e notte, oppure inviate un messaggio al 349-238-6666. Sapete, questi sono i vostri due canali di intervento, 349-238-6666 per gli sms, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Questi titoli: la legge di stabilità, secondo fonti europee qualificate, la manovra italiana non verrà respinta dalla Commissione europea, e sulle critiche della minoranza PD, Renzi replica, non mi fermano, sono come Totò. TAV, lo scrittore Harry De Luca assolto perché il fatto non sussiste, lui commenta, impedita un'ingiustizia. Roma, Marino in procura per spiegare le sue note spese, diciamo sospette, il suo legale però dice non è indagato. Medio Oriente, Hamas rilancia l'intifada e invita a nuovi attacchi suicidi verso Israele. La strage di pellegrini alla Mecca, sarebbero più di 2.000 i morti dell'enorme calca di settembre. Unioni civili, Alfano, cioè prima a fondo della Chiesa, il Cardinal Vallini, vicario del Papa, interviene sul tema, il governo farà le sue scelte, ma bastava il codice civile. Alfano chiede il voto segreto e Renzi dice il disegno di legge è una priorità, ma niente muri ideologici. Il giallo dell'imprenditore scomparso dopo il ritrovamento di un suo operaio morto, la procura apre un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Maltempo, piogge su tutto il centro e sud Italia, a Benevento scuole chiuse, cittadini invitati a lasciare le case. Incidenti stradali, secondo i dati OMS nel mondo sono causa di oltre 1 milione di morti l'anno. Rai, il sottosegretario della comunicazione Antonello Giacomelli annuncia gli stipendi dei dirigenti saranno pubblici. Quindi dalla legge di stabilità, secondo fonti europee, come vi dicevo, qualificate, così si dice, la manovra italiana, quindi attendibili, la manovra italiana non verrà respinta da Bruxelles, che deve dare il suo responso entro un mese. Resta tuttavia aperta la questione dello sconto migranti, cioè la richiesta da parte dell'Italia di non considerare nell'equilibrio del bilancio le spese per l'assistenza ai migranti quantificate dal governo italiano in 3,3 miliardi. Poi ne parleremo in modo più approfondito dopo. Intanto Marino e le nostre note spese, e oggi è stato sentito Marino in procura per chiarire appunto questa vicenda delle note spese, di quelle incongruenti, e la notizia di poco fa è che il sindaco ha portato i suoi documenti al PM e nella ricostruzione ci sarebbero, dice, errori dei miei uffici, cioè delle firme che in realtà non sono sue, secondo anche il suo avvocato, ma di altri che avrebbero sbagliato in questi uffici del comune. E poi per la vicenda TAV, lo scrittore Henry De Luca è stato assolto dal Tribunale di Torino per il suo supporto ai sabotaggi della TAV Torino-Lione, perché il fatto non sussiste. Lui commenta: impedita un'ingiustizia. Una assoluzione per il reato di istigazione a delinquere. Si chiude così il processo a Henry De Luca celebrato dal Tribunale di Torino per le dichiarazioni dello scrittore nel 2013 a sostegno delle azioni di sabotaggio contro il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte in Valsusa. In aula un applauso ha accolto le parole del giudice, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e poi strette di mano, abbracci, commozione dalle decine di sostenitori presenti in udienza. Nessun commento alla sentenza da parte di TELT, la società italo-francese che gestisce i lavori del cantiere, che però in una nota diffusa nel pomeriggio rinnova l'appello agli oppositori del collegamento Torino-Lione perché rinuncino a ogni forma di violenza, auspicando il confronto democratico. Nelle parole di Henry De Luca la convinzione che il processo di Torino rappresenti un passaggio chiave. Questa soluzione mi ribadisce il vigore dell'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la più ampia libertà di espressione ai cittadini di questo paese. E ancora, nelle dichiarazioni spontanee lette dallo scrittore prima della sentenza, il riferimento alle azioni di sabotaggio come difesa legittima di un territorio. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero, in Medio Oriente, dove gli appelli alla moderazione non hanno avuto finora nessuna risposta, nessun riscontro, e oggi il movimento terroristico Hamas dice che l'intifada continuerà fino alla liberazione di Gerusalemme e dell'intera Palestina. È stata respinta intanto da Israele la proposta francese di schierare degli osservatori internazionali nella spianata delle moschee. Hamas ha ordinato da Gaza alle sue cellule in Cisgiordania di riprendere gli attacchi suicidi, lo afferma Radio Gerusalemme citando imprecisate fonti israeliane. Intanto la polizia, dopo aver definito l'episodio di massima gravità, ha aperto un'inchiesta per individuare gli israeliani che ieri a Be'er Sheva hanno infierito su un cittadino eritreo già ferito a colpi d'arma da fuoco dalla polizia, che lo aveva scambiato per un complice dell'attentatore palestinese. L'uomo innocente è morto dopo ore di agonia. Il tutto mentre il premier israeliano Netanyahu, dopo un'ondata di proteste, ha bloccato la costruzione ed ulteriori muri a Gerusalemme tra i quartieri arabi ed ebraici e seccamente respinto la proposta francese di schierare osservatori internazionali nella spianata delle moschee. Il Ministero degli Affari Esteri israeliano ha ribadito la sua netta contrarietà all'ambasciatore francese in Israele convocato oggi. Per cercare di fermare l'escalation, il segretario di Stato USA John Kerry incontrerà nei prossimi giorni il presidente palestinese Abu Mazen e il premier israeliano Netanyahu, ai quali oggi da Madrid ha chiesto di porre fine alla spirale di violenza senza senso. Violenze che dall'inizio della cosiddetta intifada dei coltelli hanno provocato 44 morti e 1800 feriti tra gli arabi e 8 vittime e 30 feriti tra gli israeliani. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriva il bilancio molto pesante, un aggiornamento del bilancio molto pesante dei morti nella calca che c'era stata durante il pellegrinaggio nei luoghi santi dell'Islam. Vi ricordate, il mese scorso alla Mecca in Arabia Saudita, e sarebbe arrivato questo bilancio a quota 2110 morti per quella calca. Lo riporta l'Associated Press, impegnata in una serie inchiesta sulla disgrazia. Per quanto riguarda la Turchia, di fronte al flusso di siriani e altre persone del Medio Oriente, la Turchia dice che con l'Unione Europea non è ancora stato trovato un equilibrio. Non si può pensare, dice il primo ministro, che la Turchia accetti di diventare un campo profughi in cambio di soldi. Ma dalla Turchia ci sono però anche altre notizie, come quella della misteriosa morte di una giornalista inglese trovata impiccata nella toilette dell'aeroporto Ataturk di Istanbul. Dirigeva in Iraq un istituto per la stampa indipendente, e anche il suo predecessore era stato ucciso in un attentato. Ne parliamo con Marco Barbonaglia in diretta dalla Turchia. Ciao Marco. Ciao Roberta. Sì, quello che lascia perplessi di questa storia, soprattutto molti dei colleghi della giornalista, lo si può capire facilmente analizzando chi era Jackie Sutton. Cinquantenne, nata nell'Hertfordshire, in Inghilterra orientale, poi trasferitasi a Londra, aveva lavorato per la BBC, era stata in Iraq e in Afghanistan. Attualmente era la direttrice dell'Institute for War and Peace Reporting, organizzazione che attraverso uffici in vari paesi dove ci sono dei conflitti supporta attivisti, giornalisti, insomma stampa indipendente anche. Questa persona, definita dura, molto determinata dai colleghi, una donna che parlava cinque lingue, insomma abituata a muoversi in zone di guerra, secondo la versione ufficiale sarebbe arrivata all'aeroporto Ataturk di Istanbul domenica 18, scoperto di aver perso l'aereo per Erbil, si sarebbe messo a piangere perché non aveva i soldi per comprare un altro aereo, dopodiché si sarebbe recata alla toilette e si sarebbe suicidata. Senz'altro, questa cosa è molto credibile, no? Sembra. Tra l'altro uno va in una toilette dell'aeroporto a suicidarsi, se proprio si deve suicidare, diciamo, luoghi più intimi probabilmente, no Marco? La BBC stessa, che non ha ovviamente potuto dire delle cose, non ha potuto smentire completamente ciò che viene detto in maniera ufficiale, è stata, diciamo, in qualche modo prudente, però ha concluso il servizio dicendo quello che esattamente è avvenuto non lo si sa ancora, quindi sicuramente la versione è poco credibile, non abbiamo delle prove, però sappiamo, come dicevi, che per esempio il predecessore di Jackie Sutton, che lei stessa stava indagando sull'ISIS, aveva parlato con le donne dell'ISIS, a quanto pare aveva paura di subire delle ritorsioni, di essere ucciso dall'ISIS. Sappiamo che il suo predecessore è stato assassinato proprio in Iraq, a Baghdad, con un'autobomba. Quindi c'è anche un precedente di questo tipo ad aggravare, diciamo, una situazione che potrebbe diventare anche un caso, perché comunque stiamo parlando di una cittadina britannica trovata morta in circostanze quantomeno misteriose nell'aeroporto di Istanbul a pochi giorni dalle elezioni del 1 novembre. E di quello parleremo, un momento delicato anche in Turchia. Grazie Marco Barbonaglia. Ciao Marco. Ciao. E adesso negli Stati Uniti, l'ultima sparatoria avvenuta in un campus dell'Oregon in cui sono morti 9 studenti negli Stati Uniti ha convinto un maggior numero di statunitensi a sostenere la necessità di regole più ferree nell'acquisto delle armi da fuoco. E secondo l'ultimo sondaggio di Gallup, il 55% degli statunitensi crede che siano necessarie delle nuove regole più restrittive, quindi un numero cresciuto rispetto all'anno scorso del 6%, qualcosa forse si muove. E poi di nuovo in Italia con le unioni civili a fondo della Chiesa, il cardinal Vallini, vicario del Papa, è intervenuto su questo tema, ha detto il governo faccia la sua scelta, ma bastava il codice civile. Alfano chiede intanto il voto segreto e Renzi dice il disegno di legge è una priorità per noi, ma no a muri ideologici. E di questo poi parleremo più tardi con Effetto Notte con il senatore del PD Sergio Lo Giudice. Per la cronaca c'è il giallo dell'imprenditore scomparso dopo il ritrovamento ieri di un suo operaio morto, quello che doveva testimoniare di quali erano state le ultime ore di questo imprenditore. La procura apre un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio e di questo parleremo sempre qui oggi durante la puntata di Effetto Notte con un criminologo per cercare di fare un'analisi dei fatti che per il momento sono a conoscenza degli investigatori. Per il fisco invece, per andare su tutt'altro argomento, l'Agenzia delle Entrate avverte i contribuenti e manda 220.000 lettere per anomalie nella dichiarazione dei redditi. Migliaia di italiani nei prossimi giorni riceveranno una lettera dall'Agenzia delle Entrate perché, pur avendo percepito più redditi o pensioni, non hanno presentato la dichiarazione e quindi non hanno pagato il conguaglio delle imposte. Per la prima volta verrà dunque realizzato un controllo a monte, possibile grazie ai dati trasmessi da datore di lavoro ed enti previdenziali dopo l'introduzione del 730 precompilato. Ciò permetterà a 220.000 contribuenti di inviare il modello unico entro fine anno ed evitare pesanti sanzioni che solitamente scattano dopo 3 anni, ci spiega Paolo Savini dell'Agenzia delle Entrate. In questi casi la sanzione è molto gravosa ed è già un atto di accertamento vero e proprio che il contribuente eventualmente deve impugnare o in mediazione o addirittura in commissione tributaria. Ora invece la situazione è diversa. È una lettera bonaria con la quale ricordiamo ai contribuenti che forse c'è una dichiarazione del reddito da presentare e che potrebbe essere stata una dimenticanza non averla presentata. Fino al 29 dicembre c'è tempo dunque per rimediare. Via Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. C'è poi da segnalare che scatta alle ore 22, quindi tra circa 45 minuti di questa sera, lo sciopero generale dei gestori delle aree di servizio autostradali, quindi dei benzinai delle autostrade, che rimarranno chiusi per 48 ore. Attenzione, quindi se imboccate le autostrade e non avete sufficiente carburante, dalle 22 inizia questo sciopero per 48 ore. E poi dati dell'OMS, nel mondo ogni anno 1,25 milioni morti in incidenti stradali, la prima causa di morte nel mondo tra i 15 e i 29 anni, a rischio sono soprattutto motociclisti e pedoni. Per quanto riguarda il maltempo, si è spostato verso centro-sud, in particolare colpita la Campania e ancora di più la città di Benevento. Sentiamo allora questa intervista di Federica Frola al sindaco di Benevento, Fausto Pepe. La situazione è assolutamente critica e assolutamente critica in alcune aree della provincia di Benevento. Ci sono state completamente devastate, ci sono danni ingenti. In questo momento l'ondata di piena è arrivata in città, però è andata in esondazione solo l'area di Ponte Valentino. Come è capitato già in una situazione di grande criticità, per cui gran parte di queste aree interessate non hanno la corrente elettrica perché già non l'avevano, in questo momento non possiamo ancora quantizzare i danni, però mi dicono nella centrale operativa dove ora sto che sono ingenti. Lei ha consigliato ai cittadini di lasciare le case della zona industriale? Non ho consigliato, ho ordinato. Ho consigliato invece agli altri cittadini nei pressi del fiume di andare nei piani superiori. Allora, prima di sentire quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia, vi aggiorno sull'argomento che ho lanciato questa sera e voi avete capito effettivamente che cosa siano le stepchild adoptions, cioè sapete cos'è la stepchild adoption di cui si parla nel disegno di legge Cirinnà, cioè quello sulle unioni civili, perché su questa storia delle adozioni c'è, credo, molta confusione, al di là di essere d'accordo o meno d'accordo, però l'importante è capire di cosa si stia parlando. Poi lo affronteremo questo tema con il senatore del PD Sergio Lo Giudice. Per i vostri commenti su questa notizia, se volete anche sulle altre, ma quelle trattate stasera e quelle importanti della giornata, pagina Facebook di Effetto Notte oppure messaggi al 349-238-6666. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora c'è Marco detto Mario da Cividale che al 349-238-6666 scrive: se io ho due case e devo due canoni Rai, beh, se ci sono televisori in tutte e due le case, per forza Marco, mi dispiace. E poi invece sull'altro argomento, quello che vi ho lanciato questa sera sulle unioni civili, Costantino da Cristofano dice: unioni civili, si violenta la natura, ma dove viviamo? Secondo Costantino. Poi Olga torna evidentemente all'argomento delicato, questo del cano: io non ho né la televisione né tantomeno internet, però perciò farò dei bollettini postali a parte detraendo la tassa TV dell'energia e che mi facciano pure causa, ma spero che riescano, non so, per un qualche motivo a sapere già se uno ce l'ha o non ce l'ha, di non dover fare poi tutta l'operazione di detrarre dopo. E poi ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma me ne occuperò tra pochissimo. Adesso vi ricordo, per quelli che hanno acceso la radio Effetto Notte un po' in ritardo anziché alle 21 puntualmente, quali sono le notizie più importanti della giornata. L'Europa verda verso il via libera, dare il via libera alla manovra italiana, non sarà respinta, quindi il ministro Padoan dice: abbiamo trovato la quadra, ma resta la tensione nel PD. Harry De Luca, lo scrittore, assolto sulla TAV, lui dice: è stata impedita un'ingiustizia, i giudici dicono che sull'invito ai sabotaggi da parte di De Luca il fatto non sussiste. Il sindaco, l'ex sindaco dimissionario, diciamo, Marino, 4 ore oggi dai PM che indagano sulle sue note spese, lui nega le accuse, il suo avvocato dice: ci sono stati degli errori di firme che non sono sue ma dei suoi uffici. Hamas rilancia l'intifada in Medio Oriente, anche armata, liberiamo la Palestina. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu torna indietro, fa marcia indietro sui nuovi muri che voleva far costruire a Gerusalemme. Anomalie nel 730 precompilati, io dicevo precomplicato, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato. Spediti 220.000 avvisi, lettere bonarie a chi ha sbagliato, l'Agenzia delle Entrate dice: si rimedierà con ravvedimento. E poi a fondo della Chiesa sulle unioni civili, la famiglia è altro, Alfano insiste sul voto segreto, i laici dicono: non dobbiamo devitalizzare questo disegno di legge. Poi Salvini chiama Berlusconi, dice: accordiamoci, andiamo insieme a Bologna senza simboli per le elezioni a Bologna. E poi lancia la 3 giorni di protesta, canone TV, io non lo pago. Hai capito, Salvatore? Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, qua già si organizzano per pagare il canone. Senti, io lo pago il canone. Anch'io, ecco. da tanti anni. Chicco, allora, la legge di stabilità è stata varata dal governo la scorsa settimana, va sottoposta, come sappiamo, da qualche tempo alla valutazione della Commissione europea, che deve dare esprimere il suo giudizio entro un mese, e Renzi aveva promesso già in questi giorni che, se anche fosse stata bocciata, l'avrebbe rispedita nuovamente tale quale. Lo vogliamo sentire quel passaggio? Sì. Fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale quale, e se uno pare non cambia niente. Cioè, questo perché sia chiaro come funziona la legge. Se Bruxelles dice no, tu gli dici: beh, peccato, sì. Ma in questo caso non esiste, perché Uno, siamo gli unici, no, gli unici no, siamo su 28 paesi tra i pochissimi che rispettano le regole. Cioè noi siamo tra i pochissimi che stanno dentro le regole europee. Siamo soltanto noi, classe politica italiana, che tutte le volte con fare tafazziano guardiamo all'Europa raccontando che in Italia l'Europa boccerà. Oh, ma noi siamo gli unici che stanno dentro, non soltanto il 3%, ma il fiscal compact. Questo l'ha detto a Radio 24, 24 mattino. Poi sentiamo invece il ministro dell'economia Padoan oggi cosa ha detto rispetto alle critiche anche proprio interne al PD. Ma l'abbattimento delle tasse che è contenuto in questa legge di stabilità riguarda le famiglie, riguarda le imprese con misure per gli ammortamenti come gli imbullonati, riguarda il mercato del lavoro con il proseguimento sia pur decrescente degli incentivi all'assunzione, riguarda sempre il mercato del lavoro con il finanziamento della contrattazione di secondo livello. Quindi dire che stiamo parlando solo di tasse sulla casa è francamente, beh, lascio a voi il termine da mettere in questi puntini in sospensione, è francamente. Francamente, dice, francamente, lasciamo perdere cos'è francamente, no? Un audio un po' particolare perché era un convegno Padoan. Allora, Chicco Padula, pare che appunto da queste fonti europee qualificate la finanziaria inviata dal governo dovrebbe essere bocciata, perché pare che dicano in Unione Europea che l'Italia è più solida del 2014, resta però poi la questione dello sconto migranti, no? Sì. Sì, beh, io insomma devo dire però onestamente, insomma, tutti questi rischi che la Commissione europea, almeno in questo primissimo esame, potesse bocciare così categoricamente la legge, il disegno di legge di stabilità italiana, ma io onestamente non lo vedevo. Ricordo che la Commissione europea non ha bocciato pochi giorni fa, poche settimane fa, la finanziaria della Spagna, che diciamo lì sì, ci sarebbe molto da dire. Quindi non mi sembra strano, nel senso che le regole europee prevedono che la Commissione nel giro di 2 settimane possa presentare delle obiezioni se ci sono delle evidenti violazioni alle regole europee, ed è, bisogna dire, con questa finanziaria si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, a chi piace la tassa sulla casa, chi la voleva, ci sono tante cose delle quali si può parlare, però non mi sembra che si possano intravedere delle palesi violazioni alle regole europee. Ci sono scelte che il governo ha fatto, quindi il rischio che in 2 settimane arrivasse questa bocciatura secondo me era abbastanza, insomma, marginale. E è vero che poi però la Commissione europea si prenderà un po' di tempo in più e andremo qui, se ricordo bene, verso la metà di novembre, forse anche qualche giorno più avanti, quando la valuterà nel suo complesso anche alla luce delle nuove previsioni sulla crescita a livello europeo che arriveranno il 5 novembre. Quindi adesso superiamo giustamente un esame, poi vedremo, diciamo, più avanti che cosa succederà. Tu hai citato adesso una questione che effettivamente è ancora in sospeso, che è quella che ormai tutti chiamiamo la clausola migranti. Di che cosa si tratta? L'Italia chiede alla Commissione europea di poter utilizzare, diciamo, un margine ulteriore di flessibilità sui propri conti, cioè chiede di poter spendere circa 3,3 miliardi in più rispetto a quanto dovrebbe spendere per rispettare i suoi parametri di deficit PIL, proprio in funzione del fatto che l'Italia, come altri paesi, peraltro stanno affrontando e stanno sostenendo in questo periodo spese importanti per l'accoglienza dei migranti. Allora, se la Commissione europea dirà va bene, vi concediamo questo ulteriore margine di flessibilità sui conti, allora quei 3,3 miliardi l'Italia li destinerebbe da subito alla riduzione delle tasse sulle imprese, ad alcuni interventi sull'edilizia scolastica e altre cose. Quella mi sembra, insomma, una cosa che ancora deve essere valutata. Per il resto, peraltro, domani sul Sole 24 Ore avremo un'intervista molto molto ampia al ministro Piercarlo Padoan, che insomma conferma che le scelte fatte dal governo sono tutte all'interno delle regole europee, cioè non è che l'Italia si sia inventata niente di particolare. Senti, Chicco Padula, solo due cose velocissimamente. Allora, intanto sai che c'è la polemica comunque interna al PD sulla legge di stabilità e la minoranza sta elaborando una contromanovra. Per esempio Speranza, della minoranza PD, Roberto Speranza, dice via la tassa ai castelli, non è una battaglia PD, è più facile vendere la Fontana di Trevi che convincerci del contrario, cioè sempre la polemica sulla TASI, che non dovrebbe essere, secondo la minoranza PD, tolta a tutti, anche a quelli con le case di lusso. E poi c'è sempre preoccupazione per il canone, per qualcuno dice: non è vero che se ho due case devo pagare il canone in tutte e due le case. Tu sai qualcosa? Sì. Dunque, io sulla parte diciamo legata alla tassa sulla prima casa, io però appunto ancora qui rientriamo un po' nella sfera del che ognuno esprime la sua opinione. La mia opinione è che probabilmente sarebbe stato più giusto, sarebbe più giusto trovare un meccanismo che toglie la tassa, diciamo, ai redditi meno abbienti, esatto, e la lascia sulle case di lusso, sui castelli, eccetera. Però qui insomma parliamo di opinioni personali, però insomma, visto che me l'hai chiesta, te l'ho detta. Hai fatto bene, io la penso come te. Invece sulla questione, che poi noi due la paghiamo, anche senza avere casa di lusso, certo, sulla questione canone RAI, non so come si organizzeranno, però attualmente la legge prevede che se tu hai due abitazioni, hai due televisioni, la paghi solo per l'abitazione principale. Ah, solo l'abitazione principale? Solo per una casa. Benissimo. Ora bisognerà vedere come poi adesso tradurranno questa cosa per la bollettazione, le bollette dell'Enel, eccetera. Però la regola è così: troveranno un tre case con tre televisori, ne paghi una solo. Ah, ecco, questa cosa invece l'ultima settimana è arrivata una notizia invece diversa. Bene, così abbiamo tranquillizzato molti ascoltatori che hanno due, tre, cinque case, ne pagano una sola. Vabbè. Tante televisioni. Grazie Chicco Padula. Grazie a te. Ciao, grazie, buon lavoro. Ciao. Oh, invece adesso ci occupiamo di questo caso di cronaca, che è davvero un giallo molto molto intricato, almeno per il momento, nel senso che si è complicato. Sapete dell'imprenditore scomparso nel Brisciano, Mario Bozzoli, titolare di una fonderia di Marcheno, appunto vicino Brescia, sparito l'8 ottobre e aveva salutato i suoi operai, tra cui questo operaio che si chiamava Ghirardini, altri due dipendenti, e aveva detto: io vado ragazzi, ci vediamo domani. Poi di questo imprenditore non si è saputo dall'8 ottobre più niente. Che cosa è successo? Ieri è stato ritrovato il corpo di questo operaio Giuseppe Ghirardini, che era scomparso a sua volta nel nulla. Doveva andare a una battuta di caccia, anzi in realtà doveva andare a testimoniare, visto che era stato uno degli ultimi a aver visto l'imprenditore vivo, però poi aveva salutato i familiari dicendo: vado a fare una giornata di caccia con i miei amici. Invece questa battuta di caccia non c'è mai stata e lui è stato ritrovato morto ieri. Era scomparso mercoledì, è stato trovato cadavere ieri sulle montagne intorno a Ponte di Legno, che è vicino Brescia. Si tratta, è stato spiegato in ambienti giudiziari, di un'ipotesi tecnica, quella che è stata fatta oggi. La novità è questa, cioè che la procura di Brescia ha aperto due fascicoli contro ignoti. Uno di questi è relativo all'ipotesi di istigazione al suicidio, cioè nel senso stanno valutando tutte le piste, naturalmente gli inquirenti, però se hanno formulato questa espressione evidentemente ritengono che la più attendibile possa essere questa dell'istigazione al suicidio per il povero operaio cinquantenne. E nelle indagini naturalmente si dovrà avere una risposta dalla sua autopsia, e quindi nei prossimi giorni, del suo cadavere, e nelle indagini c'è la super consulente del caso Iara, questa Elena Cattaneo. Ne parliamo con il nostro criminologo Ernesto Savona, professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano. Bentornato professor Savona. Grazie, buonasera. Lei che idea si è fatto di questi, all'inizio no, è scomparso l'imprenditore, secondo gli inquirenti fra l'altro è anche il suo avvocato, non sarebbe mai uscito dalla sua azienda, nel senso che sarebbe da cercare lì da qualche parte. Ma la vicenda dei due era legata fin dall'inizio, questa è una cosa abbastanza assodata. Il fatto dell'apertura di un fascicolo per induzione al suicidio fa capire che gli inquirenti hanno trovato nella perizia o nella scena del delitto la sicurezza che sia stato un suicidio, perché sennò non si sarebbe aperto un fascicolo. Questo vuol dire che prima o poi i due fascicoli si uniranno insieme e che l'uno sia funzionale all'altro. Il dubbio che viene è che Ghirardini sia comunque un testimone, un collaboratore o qualcosa di simile all'uccisione del manager o del proprietario dell'azienda. Se riusciremo a trovare qualcosa dentro l'azienda, come un piccolo frammento di DNA dentro un alto forno, allora ancora di più le prove verranno valorate. Ma ho la sensazione che i due fascicoli si uniranno insieme molto presto. E questo è abbastanza, ormai ci risulta anche più profani, abbastanza chiaro che ci sia un legame, no, tra queste due morti. Diceva il procuratore di Brescia, Tommaso Buonanno, che non si nasconde, insomma, che l'inchiesta è molto difficile, ha detto addirittura tra le più difficili che abbia mai affrontato, ha detto che è stato fatto in questi giorni un lavoro immane e anche secondo lui Bozzoli non è mai uscito da quella fabbrica. Ho la sensazione che a questo punto non ci sono molte alternative all'idea di un omicidio, se questi sono gli elementi e gli indizi avvenuti all'interno delle logiche dell'azienda stessa, logiche di interessi o logiche di rapporti personali dove il Gherardini è stato testimone o collaboratore. Ecco, qui i soggetti sono pochi, puoi provare quale sia stato il movente, gli attriti, le ragioni economiche o altre ragioni di questo tipo, sarà sicuramente molto complicato e difficile, perché si ricordi che non abbiamo un corpo sul quale possiamo capire le dinamiche dell'omicidio, perché questo corpo frammentato in un altro forno, se così è andata, non lascia capire cosa è successo, quali sono le dinamiche dell'omicidio. Quindi alla fine dovremo lavorare ancora per indizi, non è detto che arriveremo alla soluzione. Però i soggetti che ruotano intorno al caso sono sicuramente molto pochi. E tra l'altro sul corpo dell'operaio per il momento dicono gli inquirenti che non ci sono segni di violenza, e l'avvocato invece dell'imprenditore Bozzoli dice qualcuno lì dentro ha visto o ha fatto qualcosa. Queste sono sensazioni, se non abbiamo degli indizi molto concreti si possono dare delle opinioni, ma fino a questo momento Gherardini, se c'è un fascicolo per induzione al suicidio, vuol dire che la scena del corpo diverso sulle montagne vuol dire che fa pensare al suicidio. A questo punto è giustificata l'apertura di quel fascicolo lì. Se c'è un suicidio ci deve essere stato un movente. Gherardini è una persona che aveva un profilo, sicuramente un passato discutibile, ma sicuramente leale rispetto all'azienda, e quindi c'è da capire che la logica del suicidio di Gherardini è dovuta, si ritorna da capo all'omicidio dentro l'azienda. Ci potrebbe essere quindi, se fosse istigazione al suicidio, un terzo soggetto che ha spinto lui al suicidio, ed evidentemente c'entra con, quindi molto molto intricata la vicenda, speriamo che nei prossimi giorni anche dall'autopsia. I soggetti sono molto pochi però, Roberta, nel senso che poi alla fine c'è il fratello dell'imprenditore, che è morto, Gherardini e qualche altro operaio, altri due operai, non è che ci sono tantissimi soggetti, almeno presenti in quel momento all'ora del delitto. Quindi se non fosse venuto nessuno da fuori, tra questi si stringe il cerchio dentro il quale devono agire gli investigatori. Direi proprio di sì. Grazie professor Nerzo Savona. Grazie a lei. Buona serata. Viabilità, anzi pausa ricreativa, sì, voi continuate con i vostri messaggi. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, con me, i vostri messaggi continuano ad arrivare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Tra pochissimo parleremo allora ancora di unioni civili e in particolare di questo l'aspetto della stepchild adoption che tanti penso non abbiano capito, la gente comune, diciamo. Alberto dice: ma perché si è presa questa maledetta abitudine dei nostri politici di parlare con termini inglesi? Ovvio che poi la gente non capisca Jobs Act, stepchild adoption, ma basta, stiamo assassinando quel che resta della nostra bellissima lingua, ne fa più una questione di lingua. Alberto, però è vero che a volte insomma può confondere. Marco scrive: la stepchild adoption mi sembra una misura sensata e concreta, garantirebbe continuità affettiva e logistica a un minore che ha perso il genitore e che viveva già con la partner. Alternative, dice, l'orfanotrofio, i nonni, una zia, l'altro genitore magari mai visto prima. E poi invece Francesca, questa è una ragazza che scrive: per me significherebbe assumere diritti e doveri nei confronti del figlio, già mio figlio del cuore, partorito dalla mia compagna insieme desiderato. Quindi è una ragazza, una donna lesbica che parla già in coppia, che avrebbe avuto questo figlio dalla sua compagna. Ne parliamo tra poco con l'ospite, ma intanto vi ricordo quali sono le notizie importanti della giornata. La legge di stabilità, secondo fonti europee qualificate la manovra italiana, non verrà respinta dalla Commissione europea. TAV, lo scrittore Harry De Luca, assolto perché il fatto non sussiste. Lui commenta: impedita un'ingiustizia. Roma, il sindaco dimissionario Marino in procura per spiegare le sue note spese e dice si è trattato di un errore dei miei uffici, le firme non sono mie. Medio Oriente, Hamas rilancia l'intifada, invita a nuovi attacchi suicidi verso Israele. Poi di unioni civili parleremo tra pochissimo, mentre del giallo dell'imprenditore scomparso abbiamo appena parlato con un criminologo. Dopo il ritrovamento di un suo operaio morto, la procura apre un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Saluto il senatore del PD Sergio Lo Giudice, buonasera senatore. Buonasera a tutte e tutti voi. Che tra i firmatari del disegno di legge Cirinna bis, questo tanto contestato da parte del nuovo centrodestra, che poi non è l'opposizione ma all'interno della maggioranza, e questa è la cosa particolare, nel 2011, lo ricordo, lei senatore si è sposato col suo compagno a Oslo, giusto? Sì. Allora, questo testo Cirinna bis non è chiaro che percorso avrà avuto, un percorso accidentato sinora, però si era detto, Renzi, il Presidente del Consiglio, aveva dato varie scadenze che ormai sono alle nostre spalle, no? Adesso la Ministra Boschi ha detto alla fine della scorsa settimana mi sa che slittano il 2016, ma sentiamo un passaggio. Il tema delle unioni civili è un tema irrinunciabile per il Partito Democratico, che quindi non fa parte, lo sappiamo, del programma di governo, perché è un tema che non è condiviso dal nuovo centrodestra, per cui se il nuovo centrodestra non appoggerà la legge sulle unioni civili, noi faremo accordi e alleanze con le altre forze politiche presenti in Parlamento per riuscire però a portare a casa questa legge. Da solo il PD non basta, è una questione di calcoli, di numeri, in Senato da soli non ce la facciamo. E quindi qui ci potrebbero essere delle maggioranze trasversali, però Renzi smorza un po', anzi la stessa Boschi, perché Renzi oggi ha detto per noi è una priorità ma non vogliamo mettere muri ideologici. Sentiamo in un altro passaggio la ministra Boschi cosa ha detto. Ci sono alcuni punti su cui il dibattito è molto acceso, penso per esempio all'adozione all'interno della coppia del figlio del partner, no? Sì. Ma sono opinioni diverse. Lei è favorevole su io questo. Personalmente sono favorevole, però so che all'interno dei partiti, nel mio partito, nel NCD, negli altri partiti, anche nel 5 Stelle, ci sono opinioni molto diverse, trasversali. Questo è uno di quei temi su cui probabilmente per esempio il PD lascerà libertà di coscienza. Ma voi... Quindi libertà di coscienza, Alfano insiste, ministro dell'interno, leader del nuovo centrodestra, noi assolutamente della Stepchild Adoption non ne vogliamo sapere nulla. Intanto spiega agli ascoltatori, per favore, senatore, esattamente in cosa consiste. È molto semplice, la legge italiana, la legge sulle adozioni, la legge 184 dell'83, prevede, oltre alle adozioni cosiddette legittimanti, cioè le adozioni propriamente dette, alcuni casi di adozione particolari. Tra questi c'è l'adozione del figlio del coniuge. Se una persona sposa un'altra che ha un figlio e magari non ha più l'altro genitore, è possibile che questo bambino venga adottato dal coniuge. La proposta è quella di estendere questa previsione anche alle coppie dello stesso sesso che si uniscano nel nuovo istituto giuridico che stiamo andando a creare, appunto, che è quello delle unioni civili. Quindi noi utilizziamo, per collegarmi a quello che si diceva in apertura, un'espressione inglese, perché stiamo importando, diciamo, in Italia un modello che è quello delle unioni civili, cioè un istituto distinto dal matrimonio che dà gli stessi diritti sociali, ma che sull'adozione, così come appunto accade in Germania, che è il paese a cui facciamo riferimento, non permette le adozioni, ma permette solo questo tipo di adozione. Cioè, quando un bambino è già in una famiglia. Quando è già in una famiglia, non in un orfanotrofio, quando è già in una famiglia, l'altro, il partner o la partner, lo adotta. Sì. Ci sono coloro che obiettano, soprattutto nel nuovo centrodestra, dicono: ma questo aprirebbe, almeno per quanto riguarda le coppie degli uomini, all'utero in affitto, perché le donne, sappiamo che una coppia di donne un figlio lo può fare quando vuole, nel senso, o con l'inseminazione artificiale, oppure con un compagno, un amico, eccetera. Per quanto riguarda gli uomini, devono ricorrere a qualcosa di esterno. Ma guarda, si possono avere opinioni diverse sulla questione della gestazione per altri, che in Italia purtroppo viene chiamata con questa espressione solo italica di per sé denigratoria, di utero in affitto. Si possono avere opinioni diverse, ma io voglio ricordare una cosa. Nella legge sulla fecondazione assistita, la legge varata dal governo Berlusconi nel 2004, la famosa legge 40, che in una prima fase prevedeva il divieto in Italia della fecondazione eterologa, si diceva anche che quei bambini nati all'estero, quindi secondo leggi di altri paesi, attraverso la fecondazione eterologa, rientrati in Italia, rispetto a questi bambini il partner della madre non avrebbe potuto disconoscere quei bambini, cioè si dava per scontato che anche se il bambino fosse nato attraverso un percorso vietato dalla legge italiana, e ricordo che la gestazione per altri è già vietato dalla legge italiana, il principio dell'interesse superiore del bambino fa sì che quel bambino debba essere riconosciuto, debba in quel caso sia addirittura l'obbligo essere riconosciuto anche dal secondo genitore. Se non vogliamo reintrodurre in Italia quella differenza che faticosamente abbiamo superato proprio di recente fra figli naturali e figli legittimi, fra figli degni di un riconoscimento legale e figli del peccato, dobbiamo partire dal presupposto che tutti i bambini hanno diritto a vivere serenamente all'interno della loro famiglia. Poi senatore Lo Giudice, mi scusi, intanto c'è un bambino da quelle parti, ma non voglio sapere cose sue, ma mi dica solo i tempi quali sono a questo punto? È vero che si va al 2016 o no? Abbiamo ancora 30 secondi, senatore. Renzi aveva dato una scadenza che era quella del 15 ottobre, non era una scadenza casuale, era la data entro la quale si poteva approvare la legge prima di entrare nella sessione di bilancio. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, siamo entrati nella sessione di bilancio, adesso è scontato che si vada dopo la fine della finanziaria e quindi con ogni probabilità all'inizio del 2016. Il problema non è un mese più in meno, il problema sarà fare una buona legge partendo da un presupposto: quasi tutti i paesi europei hanno esteso il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, lo stesso hanno fatto tutti gli Stati Uniti d'America, hanno fatto tutti i grandi paesi cattolici del mondo, dall'Europa all'America Latina. Sì. Questa è già una ipotesi di mediazione, quindi io mi auguro che si possa arrivare in porto con questa legge, anche perché se questa proposta dovesse essere ulteriormente modificata, il rischio è che non ci siano più i voti in Parlamento. Così. La ringrazio, senatore Sergio Lo Giudice, vedremo se ci sarà maggioranza attraversare o cosa succederà, ma se ne riparla l'anno prossimo. Grazie intanto. Grazie a tutte e a tutti voi. Grazie, buona serata, viabilità. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo allo spazio europeo. Europa 24 Notte. Parliamo di migranti, si chiude sempre di più il corridoio balcanico per i profughi. L'Ungheria infatti ha ufficializzato a Bruxelles la chiusura dei confini, mentre a sud la Turchia avverte Bruxelles: non accetteremo accordi per soldi in cambio di migranti. E domani una delegazione turca sarà a Bruxelles. Allora torniamo a fare il punto. The Commission was informed that Hungary had decided to increase controls at its border with Croatia. Un'ufficialità che arriva dalla portavoce del commissario per l'immigrazione e gli affari interni Natasha Bertrand. L'Ungheria ha notificato alla Commissione europea il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere con la Slovenia, controlli che passano per le barriere difensive rette per fermare i profughi, in un paese che comunque non è nei trattati di Schengen. Ma tant'è, l'Ungheria è sempre più una barriera invalicabile, in realtà ormai praticamente fuori dai grandi flussi migratori. I controlli sono stati introdotti ufficialmente per 10 giorni, rinnovabili fino ad un massimo di 2 mesi. Presto Bruxelles invierà a Budapest la sua valutazione, come già fatto con Germania, Austria e Slovenia. Ma la porta europea dei Balcani di fatto si chiude sempre più, con sacche di persone che rischiano di restare intrappolate in un lungo viaggio senza fine. 10.000 migranti sono entrati in Macedonia in sole 24 ore e secondo dati del commissariato dell'ONU per i rifugiati, in Serbia si trovano oltre 10.000 persone che non riescono a proseguire il cammino, in un susseguirsi di muri, barriere e limitazioni lungo l'itinerario verso l'Europa occidentale. Croazia, Slovenia, Austria. Vienna accetta solo 1.500 migranti al giorno. La Slovenia altrettanto ribadisce di non poterne accettare troppi. E ad accrescere i disagi vi è ora anche il peggioramento delle condizioni meteo, con freddo e pioggia su buona parte della regione balcanica. Eppure l'ondata non si ferma. La Guardia Costiera greca ha salvato nel fine settimana oltre 2.500 persone nel Mare Egeo orientale. Tanto che la crisi finisce per ridisegnare la diplomazia dopo la visita del fine settimana in Turchia. La stessa cancelliera Angela Merkel ha aperto all'ipotesi di accelerare il processo di adesione della Turchia all'Unione Europea in cambio di un aiuto di Ankara sul fronte dei migranti. Anche il presidente della Commissione Juncker ha chiamato Berlino per capire come e se il dibattito può andare avanti. Domani il ministro turco per gli affari europei sarà a Bruxelles per incontrare il vicepresidente della Commissione europea, Kristalina Georgieva, il commissario all'allargamento, Johannes Hahn, e il commissario agli affari economici, Pier Moscovici. Non possiamo accettare un accordo del tipo noi vi diamo i soldi e loro restano in Turchia, dice però senza mezzi termini Ankara. La Turchia non è un campo di concentramento e non intende accogliere in maniera permanente sul suo territorio i migranti che l'Unione Europea non vuole, ha detto il primo ministro islamico conservatore. Bruxelles è avvertita. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E c'è da dire tra l'altro che la Croazia in realtà adesso nelle ultime ore ha aperto i confini con la Serbia, ci sono migliaia immediatamente i migranti che sono affrettati a passare la frontiera, continua a essere una situazione, anche se ne parliamo puntualmente tutti i giorni, di emergenza costante. In ogni caso, in questo flusso il Pentagono aveva detto qualche settimana fa andrà avanti per 20 anni. Andiamo avanti con i vostri messaggi, giusto ancora qualche secondo. Dice un ascoltatore, Carlo da Torino: se ci fosse una storia di omosessualità dietro, qualcosa che nessuno doveva sapere, soprattutto vedere, a proposito della scomparsa dell'imprenditore nel Bresciano e della morte di un suo operaio, ma insomma una roba un po', tutto potrebbe essere in realtà. E poi vediamo ancora altri messaggi. Se andate a vedere quanto spostano i castelli, la preda è ben altra, Ulisse dice. Quanto spostano i castelli a proposito della legge di stabilità e della tassa sulla casa da levare, che è diciamo uno degli aspetti più controversi, più criticati della legge di stabilità. Però vi devo lasciare, ci risentiamo giusto per gli aggiornamenti alle 22.